Libro dei Giubilei. 1. E accadde nel primo anno dell'uscita dei figli di Israele dall'Egitto, il giorno 16, del terzo mese, il Signore parlò a Mosè e gli disse: Sali presso di me, qui sul monte, affinché io ti dia le due tavole della legge e del comandamento, come scrissi che tu debba insegnarle. Mosè ascese al monte del Signore e la gloria del Signore stava sul monte Sinai e la nube lo avvolse per 6 giorni. E il Signore, al 7° giorno, chiamò Mosè di fra la nuvola e Mosè vide la gloria del Signore come un fuoco ardente sulla cima del monte. E stette colà, sul monte, 40 giorni e 40 notti e il Signore gli mostrò le cose passate e future, le cose della suddivisione del tempo, sia secondo la legge, sia a testimonianza. Egli disse: Poni mente a tutto quel che io ti dico su questo monte e scrivilo nel libro, affinché le loro generazioni vedano in qual modo io li ho abbandonati a causa del male che hanno fatto per indurre a peccare e a far abbandonare il patto che io oggi istituisco fra me e te per la loro progenie sul monte Sinai. E così questo racconto annuncerà quando su di loro arriverà tutto il castigo ed essi sapranno che io sono più giusto di loro in tutti i loro giudizi e in tutte le loro deliberazioni e sapranno che io sono stato con loro. E tu scrivi, per te, queste parole che io oggi ti dico, poiché io conosco la loro ira e la loro dura cervice se non li faccio entrare nella terra che promisi ai loro padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe, allorché dissi: Do alla vostra progenie questa terra che stilla latte e miele, ed essi ne mangeranno, e si sazieranno e che si volgeranno agli dei dello straniero, i quali non li salveranno da tutti i loro triboli, e che questa notizia sarà conosciuta come testimonianza contro di loro. Poiché essi dimenticheranno tutti gli ordini che io do loro ed andranno appresso ai gentili, alla loro impurità ed ignominia, e si sottometteranno ai loro dei ed essi diventeranno per loro trappole, per tribolazioni, sofferenze e reti. E molti periranno e molti saranno presi, e cadranno in mano al nemico per aver trasgredito la mia legge e il mio comandamento, le feste del mio patto, i miei sabati ed il mio luogo sacro che io santificai, per me, in mezzo a loro, e il mio tabernacolo e il mio santuario che io santificai, per me, in mezzo alla terra, affinché lo intestassi al mio nome e permanesse. Ed essi si costruiranno alti luoghi, alberi sacri e statue ed adoreranno, ognuno, il proprio errore e sacrificheranno i loro figli ai diavoli e a tutte le opere dell'errore del loro cuore. Ed io, per far testimoniare contro di loro, invierò testimoni presso di loro ed essi non ascolteranno, uccideranno il teste e perseguiteranno anche quelli che cercano la legge e renderanno tutto vano e cominceranno a fare il male innanzi ai miei occhi. Ed io mi nasconderò da loro e li metterò fra i popoli alla cattività, ai lacci e all'esser consumati e li espellerò dalla terra e li disperderò fra i popoli. ed essi dimenticheranno tutta la mia legge, il mio comandamento e tutta la mia giustizia e trascureranno il primo del mese, il sabato, la festa, il giubileo e la legge. E, di poi, ritorneranno a me, di fra i popoli, con tutto il loro cuore, la loro anima e la loro forza, ed io li radunerò di fra tutti i popoli ed essi, quando mi avranno cercato con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, mi chiederanno di andare loro incontro. Ed io manifesterò loro molta pace, nella giustizia, e li trasferirò nel giardino della giustizia con tutto il mio cuore e tutta la mia anima ed essi saranno per la benedizione, e non per la maledizione, saranno testa e non coda. Ed io costruirò il mio santuario in mezzo a loro e risiederò con loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. In verità e giustizia, non li abbandonerò e non li ripudierò perché sono il loro Dio. E Mosè cadde sulla propria faccia, pregò e disse, «O Signore, Dio mio, non permettere che il tuo popolo, la tua eredità, proceda nell'errore del proprio cuore e non consegnarlo in mano al suo nemico, ai gentili, e che, costoro, non lo abbiano in loro potestà e non lo facciano peccare contro di te. Si innalzi, o Dio, sul tuo popolo, la tua misericordia e crea in esso uno spirito retto e non abbia lo spirito di Beliar su di esso il potere di accusarlo innanzi a te e di deviarlo, con la frode, da tutte le vie della giustizia sì che si perda da davanti al tuo cospetto. Esso è il tuo popolo e la tua eredità che tu, con la tua grande forza, hai salvato dalla mano dell'Egitto. E crea, in esso, un cuore puro, uno spirito santo e che esso non sia irretito, da oggi nei secoli, dai suoi peccati. E il Signore disse a Mosè, «Io conosco le loro dispute, il loro pensiero e la loro dura cervice, ed essi, fin quando non si renderanno conto dei loro peccati e dei peccati dei loro padri, non ascolteranno. Poi ritorneranno a me, in tutta rettitudine, con tutto il cuore e tutta l'anima ed io reciderò il prepuzio del loro cuore e quello della loro stirpe e creerò, per essi, uno spirito santo e li purificherò sì che, da quel giorno fino all'eternità, non si allontanino da dietro a me. E la loro anima mi seguirà in tutti i miei comandamenti ed i miei comandamenti ritorneranno a loro ed io sarò, per loro, il padre ed essi mi saranno figli. E tutti saranno chiamati figli del Dio vivo, e tutti gli spiriti e tutti gli angeli sapranno ciò e sapranno che essi sono miei figli e che io li amerò e che sono, in rettitudine e giustizia, loro padre. E tu scrivi, per te, tutto ciò che io oggi ti dico su questo monte, le cose di prima. Del dopo che verrà, in tutta la suddivisione del tempo, la quale è nella legge e a testimonianza, nei settenni dei giubilei, fino all'eternità, fin quando io discenderò e dimorerò con loro, nei secoli dei secoli. E disse all'Angelus Facei, scrivi, per Mosè, dalla prima creazione fino a quando sarà costruito, in mezzo a loro, il mio santuario, per l'eternità. E il Signore apparirà agli occhi di tutti e tutti sapranno che sono il Dio di Israele, il Padre di tutti i figli di Giacobbe e il Re sul Monte Sion, nei secoli. E Sion sarà santa, ed Gerusalemme. El Angelus Facei, che andava innanzi alle schiere di Israele, prese le tavole della suddivisione degli anni fin dal tempo della creazione, legge, e testimonianza, ai settenni e ai giubilei, per ogni anno. In tutti i loro numeri e giubilei, per ogni anno, dal giorno della nuova creazione, allorché si rinnoveranno i cieli, la terra, e tutte le loro creature secondo le loro potenze celesti, e secondo tutta la creazione terrestre, fino a che sarà creato il santuario del Signore, in Gerusalemme sul Monte Sion, e si rinnoveranno tutte le luci per la guarigione, la salvezza, e la benedizione di tutti gli eletti di Israele, sì che sia così da quel giorno fino a tutto il tempo della terra. 2. Creazione. El Angelus Facei, in conformità all'ordine del Signore, disse a Mosè, scrivi tutte le cose della creazione, in qual modo il Signore Iddio compì, in sei giorni, tutta la sua creazione e nel settimo giorno si riposò, lo santificò per tutti i secoli e lo pose a segno di tutta la sua opera. Che nel primo giorno creò i cieli che in alto, la terra, le acque ed ogni spirito che serviva al suo cospetto, gli angeli facei, gli angeli della santità, gli angeli dello spirito del fuoco, e quelli dello spirito del vento, delle nuvole per la tenebra, la grandine e la neve, gli angeli degli abissi, dei tuoni e dei fulmini, gli angeli degli spiriti del gelo, del forte calore, della stagione delle piogge, della primavera, dell'estate e dell'autunno, e di tutti gli spiriti riuniti che sono in cielo, in terra, e in tutti gli abissi, la tenebra, la luce, l'alba, e la sera, i quali egli gli preparò con la sapienza del suo cuore. E allora, vedemmo la sua opera, lo benedicemmo e lo magnificammo in sua presenza, per tutta la sua opera, dato che, nel primo giorno, aveva fatto sette grandi opere. E nel giorno seguente fece il firmamento in mezzo alle acque le quali, in quello stesso giorno, si separarono, una metà di esse salì in alto ed una metà scese sotto il firmamento, sulla faccia della terra. E solo quest'opera fu fatta nel secondo giorno. E nel terzo giorno operò in conformità a come aveva detto alle acque che, cioè, passassero dalla faccia della terra, in un unico luogo ed apparisse l'asciutto e fece le acque così come aveva loro detto. Ed esse si ritirarono da sopra la faccia della terra, in un sol luogo, fuori del firmamento e, colà, apparve l'asciutto. E in quel giorno fece per essa gli abissi dei mari in ogni luogo, o in cui i mari confluivano, e tutti i fiumi, e i luoghi in cui, nei monti e in tutta la terra, confluivano le acque, e tutti i laghi e la rugiada della terra, i semi che si seminano, secondo ogni specie. Tutto quel che si mangia, gli alberi che fanno frutto, i boschi e il giardino di Eden, per la felicità. E tutte queste quattro grandi famiglie le fece nel terzo giorno. E nel quarto giorno fece il sole, la luna, e le stelle, e le mise nel firmamento del cielo. Perché splendessero sulla terra per il governo del giorno e della notte e per far distinzione fra giorno e notte, fra luce e tenebra. E Dio dette il sole come grande astro sulla terra per i giorni, le settimane, i mesi, le feste, gli anni, i sabati, i giubilei e tutti i periodi degli anni. Ed esso fa separazione, per la prosperità, tra luce e tenebra, sì che prosperi tutto quel che germoglia e cresce sulla terra. Nel quarto giorno fece queste tre cose. E nel quinto giorno creò, in mezzo agli abissi delle acque, grandi balene, perché per primi furono fatti, dalle sue mani, questi esseri di carne, e tutti quelli che si muovono nelle acque, i pesci, e tutti quelli che volano, gli uccelli e tutti i loro simili. E sorse il sole, per la prosperità, su di loro e su tutto quel che è sulla terra, su tutto quel che da essa germoglia, su tutti gli alberi che fanno frutti e su tutti quelli che sono di carne. Queste tre specie di creature le fece nel quinto giorno. E nel sesto giorno fece tutte le fiere della terra, tutti gli animali e tutti quelli che si muovono sulla terra. E, dopo tutto ciò, fece il genere umano, un uomo ed una donna. Li fece e gli diede potestà su tutto quel che è sulla terra e nei mari, su quelli che volano, su tutte le fiere, gli animali, su tutti quelli che si muovono sulla terra e su tutta la terra. Egli diede potestà su tutti costoro. Queste quattro creazioni le fece nel sesto giorno. E furono, in tutto, 22 specie e completò, nel sesto giorno, tutta la sua opera. Tutto quel che è nei cieli, in terra, nei mari, negli abissi, nella luce, nelle tenebre, e ovunque. E il Signore ci diede il gran segno, il giorno dei sabati, sì che noi stessimo a lavorare per 6 giorni e, nel settimo, ci riposassimo da ogni fatica. E, tutti gli angeli facei, e a tutti gli angeli delle santità, ad ambedue queste grandi famiglie. Egli ci disse di celebrare il sabato con lui, in cielo e in terra. E ci disse, ora io separo, per me, di fra tutti i popoli, un popolo. Anche essi celebreranno il sabato ed io li santificherò e benedirò il popolo, come ho santificato la giornata dei sabati e li ho santificati per me, così io lo benedirò ed esso diverrà il mio popolo ed io diverrò il loro Dio. Ed io, fra quelli che ho visto, ho scelto, in tutto e per tutto, la stirpe di Giacobbe, la ho iscritta come mio figlio primogenito, la ho santificata, per me, per l'eternità e le indicherò di riposare, il sabato, da ogni opera. E fece, con ciò, un avvertimento tale per cui anche essi celebrassero con noi il sabato a mangiare, a bere e a benedire il Creatore di tutto così come egli aveva benedetto e santificato, per stesso, il popolo che, fra tutti i popoli, si era manifestato, e santificassero il sabato insieme con noi. Ed egli ottenne, davanti a esse, quel che voleva, che ascendesse, davanti a lui, un bel profumo, sempre gradito. I capostipiti da Adamo a Giacobbe sono 22 e 22 specie di opere furono fatte fino al settimo giorno. Questo, ed anche quello, è benedetto e santo ed ambedue sono per la benedizione e la santificazione. E a questo popolo fu concesso di essere, per sempre, il popolo della prima legge e testimonianza, benedetto e santo così come egli aveva santificato e benedetto, nel settimo giorno, il giorno festivo. Creò, in sei giorni, il cielo, la terra, e tutto il resto e diede, alla sua opera, un giorno di festa santa. Perciò ordinò, a proposito di esso, che chiunque facesse in esso un qualsiasi lavoro morisse e che morisse anche colui che lo contaminasse. E tu ordina ai figli di Israele che osservino questo giorno, che lo santifichino, che non facciano, in esso, alcun lavoro e non lo profanino poiché è un giorno santo più di tutti i giorni. Tutti coloro che lo profanano, muoiano e quelli che fanno, in esso, qualsiasi lavoro, muoiano per l'eternità. Che i figli di Israele osservino questo giorno in le loro generazioni affinché, poiché è un giorno santo e benedetto, non siano sradicati dalla terra. E ogni uomo che lo rispetterà e si riposerà in esso da ogni lavoro, sarà santo e benedetto, come noi, per tutti i tempi. E annunzia di, ai figli di Israele, quel che è giusto fare in questo giorno, che si riposino in esso e che non lo trascurino per l'errore del loro cuore e che non si apprestino a fare. In detto giorno, opera che non si debba e che non preparino, in esso, roba da mangiare o da bere e che ad attingere acqua e a fare entrare e uscire, attraverso le loro porte, alcunché di trasportabile. Quel che essi non hanno preparato, per esse stessi, nel sesto giorno, nelle loro case, non lo introducano o lo facciano uscire, in questo giorno, da una casa all'altra perché è un giorno santo e benedetto più di tutti i giorni dei giubilei. In questo noi ci riposammo nei cieli prima che a tutte le creature di carne fosse noto di doversi riposare, in tal giorno, sulla terra. Il Creatore di tutto lo benedì, perché in esso si riposassero, non santificò tutti i popoli, ma solo il popolo di Israele. Ad esso solo concesse di mangiare e bere e di riposarsi, in esso, sulla terra. Il Creatore di tutto, che aveva creato questo giorno, lo benedisse fra tutti i giorni, affinché fosse destinato alla benedizione, alla santificazione e alla laude. Questa legge e questa testimonianza fu data ai figli di Israele, legge eterna per tutte le loro generazioni. Tre. E nei sei giorni della seconda settimana, per ordine del Signore, conducemmo ad Adamo tutte le fiere, tutti gli animali, gli uccelli e tutti quelli che si muovono sulla terra e nell'acqua, ognuno secondo la propria famiglia e il proprio aspetto. Nel primo giorno, le fiere. Nel secondo, gli animali. Nel terzo, gli uccelli. Nel quarto, tutti quelli che si muovono sulla terra e, nel quinto, quelli che si muovono nell'acqua. E Adamo li chiamò ognuno per proprio nome e il loro nome fu così come egli li aveva chiamati. E in questi cinque giorni Adamo se ne stette a guardare tutti questi maschi e femmine di tutte le famiglie della terra. Ed egli se ne stava solo e non era che avesse un compagno che lo aiutasse come lui. E il Signore ci disse, non è bello che l'uomo stia solo. Facciamogli un compagno come lui. E il Signore, nostro Dio, pose un sopore su di lui. Egli si addormentò e prese, per la donna, un osso delle sue ossa. E la creazione della donna, di fra le ossa di lui, fu dal fianco e formò la carne al posto di osso e costruì la donna. E Dio destò Adamo dal suo sonno. Egli, svegliatosi, si alzò nel sesto giorno, venne presso di lei e la conobbe. E lei disse, questo, adesso, è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Costei sarà chiamata mia donna, poiché è uscita ed è stata tratta dal suo uomo. E, perciò, uomo e donna siano una cosa sola e l'uomo lasci suo padre e sua madre. Si unisca con la propria donna e saranno una sola carne. Nella prima settimana fu creato Adamo e il fianco, la sua donna, gliela fece vedere nella seconda settimana e, perciò fu dato ordine di rispettare, per i maschi, sette giorni e, per le femmine, due sette giorni di impurità. E, dopo che, per Adamo, si compirono 40 giorni sulla terra ove era stato creato, lo facemmo entrare nel giardino di Eden perché lo coltivasse e ne prendesse cura. E la donna la fecero entrare all'ottantesimo giorno ed essa, dopo questo, entrò nel giardino di Eden. E perciò, nelle tavole del cielo, per colei che generi, fu scritto l'ordine, se ha generato un maschio stia, nella sua impurità, sette giorni come i primi sette giorni, e stia 30 giorni nella purificazione del sangue. Non tocchi tutto quel che è sacro, non entri nel santuario finché non abbia compiuto questi giorni che per maschio. E, per la femmina, stia 2 settimane, come le 2 prime settimane, in impurità e 66 giorni nella purificazione del sangue. E, tutti, saranno 80 giorni. E, dopo che ella ebbe compiuto questi 80 giorni, la facemmo entrare nel giardino di Eden perché è santo più di tutta la terra e tutti gli alberi che vi sono piantati sono santi. E perciò, per colei che generi, a seconda che generi maschio o femmina, fu stabilita per ogni giorno questa legge, che essa non tocchi tutto quel che è santo, e non entri nel santuario finché non si compia quel tempo fissato per i maschi e per le femmine. Questa legge e testimonianza è stata data e scritta per i figli di Israele affinché rispettino tutto il periodo di tempo. Paradiso. E nel primo settennio del primo giubileo Adamo e la sua donna stettero 7 anni nel giardino di Eden a coltivarlo e custodirlo e noi gli demmo il compito insegnandogli tutto quel che era meglio fare per la coltivazione. Ed egli se ne stava a coltivare, era nudo e non lo sapeva. Non se ne vergognava e proteggeva il giardino dagli uccelli, dalle fiere e dagli animali, ne raccoglieva i frutti, li mangiava e metteva da parte, per esse, e per la sua donna, ciò che avanzava per conservarlo. Ed essendo passati tutti e 7 gli anni che egli compì colà, 7 anni esatti, nel secondo mese, nel giorno, venne il serpente, si avvicinò alla donna e le disse: «Di tutti i frutti degli alberi del giardino, il Signore vi ha ordinato di non mangiarne?» Ed ella gli disse: «Ci ha detto di mangiare tutti i frutti d'albero che sono nel giardino, ma di non mangiare e non toccare, affinché non morissimo. Il frutto dell'albero che è nel mezzo del giardino». E il serpente le disse: «No, non è che morrete, ma perché il Signore sa che, quando lo mangerete, i vostri occhi si apriranno e voi sarete come dei e conoscerete il bene e il male». E la donna vide come l'albero bello, piacevole a vedersi e buono, il suo frutto, a mangiar, sì. Prese da esso e lo mangiò. Ed ella coprì le sue pudenda con la foglia del fico che prima lo dette ad Adamo mangiò, gli si aprirono gli occhi e vide che era nudo. Ed egli prese le foglie di fico, le cui e fece, per esse, stesso, una cintura e coprì le proprie pudenda. E il Signore maledisse il serpente e si adirò con esso, per l'eternità, e si adirò anche con la donna, perché aveva ascoltato la parola del serpente e le disse: «Moltiplicherò molto il tuo dolore e le tue doglie. Genera figli nel tuo dolore e sia il tuo rifugio presso tuo marito e che egli abbia dominio su te». E disse ad Adamo: «Poiché hai ascoltato la parola della tua donna ed hai mangiato da quell'albero, dal quale io ti avevo ordinato di non mangiare, sia a causa delle tue azioni, maledetta la terra ed essa ti produca spine ed erba cattiva. E tu mangia il tuo pane col sudore del tuo volto fino a quando tornerai nella terra, dalla quale sei stato tratto, poiché tu sei terra e nella terra ritornerai». E fece per essi abiti di pelle. Glieli fece indossare e li mandò via dal giardino di Eden. E Adamo, in quel giorno in cui uscì dal giardino di Eden, bruciò, per il bel profumo, incenso, galbano, olio di mirra e spighe aromatiche all'alba, col sorger del sole, nel giorno in cui coprì le proprie pudenda. E in quel giorno la bocca di tutte le fiere, degli animali e degli uccelli, di quelli che camminano e di quelli che si muovono, smise di parlare poiché tutti avevano parlato l'uno con l'altro, un sol labbro e una sola lingua. E mandò via, dal giardino di Eden, tutti gli esseri di carne che stavano nel giardino e si sparsero, secondo la loro specie e la loro natura, nei luoghi che erano stati creati per loro. E solo ad Adamo, a differenza di tutte le fiere ed animali, concesse di coprire le proprie pudenda. Perciò, nelle tavole del cielo, a tutti quelli che conoscono le norme della legge fu ordinato che coprissero le proprie pudenda e che non si scoprissero come si scoprono i pagani. E quando cominciò il quarto mese, Adamo e la sua donna uscirono dal giardino di Eden e stettero nella terra di Elda, nella terra della loro creazione. E Adamo chiamò Eva, la sua donna. E non ebbero figli per tutto il primo giubileo e, dopo questo, egli la conobbe. Ed egli lavorava la terra come aveva imparato nel giardino di Eden. Quattro. Caino. E nel terzo settennio del secondo giubileo generò Caino, nel quarto generò Abele e nel quinto generò la figlia Avan. E all'inizio del terzo giubileo Caino uccise Abele, poiché aveva accettato l'offerta dalle sue mani e non aveva accettato il sacrificio dalle mani di Caino. E lo uccise nella campagna. E il suo sangue gridò dalla terra fino al cielo, piangendo a causa di colui che lo aveva ucciso, ed il Signore rimproverò Caino, perché aveva ucciso Abele. E, a causa del sangue di suo fratello, lo scacciò dalla terra e lo maledisse. E perciò, sulle tavole del cielo, sta scritto, maledetto chi percuote il proprio amico in cattiveria e, maledetti, tutti coloro che hanno udito e lo approvano. E colui che ha visto e non lo ha detto, maledetto come lui. E perciò, avendo noi udito, siamo venuti ad esporre, innanzi al Signore Dio nostro, tutti i peccati che sono nel cielo e nella terra, nella luce e nella tenebra, e ovunque. E Adamo e la sua donna stettero quattro settenni a dolersi per Abele. E nel quarto anno del quinto settennio, Adamo fu felice e conobbe per la seconda volta la sua donna e costei generò un figlio che egli chiamò Set, perché, disse, Iddio ci ha dato, sulla terra, altra prole in sostituzione di Abele, ucciso da Caino. Nel sesto settennio egli generò la figlia Azzura. E Caino prese per esse, in moglie, sua sorella Avan e costei, alla fine del quarto giubileo, gli generò Eno. E nel primo anno del primo settennio del quinto giubileo furono costruite case sulla terra e Caino costruì un paese e lo chiamò. Col nome di suo figlio Eno. E Adamo conobbe Eva, la sua donna, e costei gli generò altri nove figli. E nel quinto settennio del giubileo Set prese in moglie la sorella Azzura e costei, nel quarto, gli generò Enosh. Ed egli cominciò, per primo, ad invocare il nome del Signore sulla terra. E nel settimo giubileo, nel quinto settennio, Enosh prese in moglie la propria sorella Noemi e questa, nel terzo anno del quinto settennio, gli generò un figlio ed egli lo chiamò Kenan. E alla fine dell'ottavo giubileo, Kenan prese in moglie sua sorella Muale e costei, nel terzo anno del primo settennio del nono giubileo, generò un figlio ed egli lo chiamò Malalel. E nel secondo settennio del decimo giubileo Malalel prese in moglie Dina, figlia di Barachel, e figlia della sorella di suo padre e costei, nel terzo settennio, nel sesto anno, gli generò un figlio ed egli lo chiamò Yered poiché, ai suoi tempi, scesero sulla terra gli angeli del Signore, chiamati vigilanti, ad insegnare ai figli dell'uomo a fare giustizia e rettitudine sulla terra. E nell'undicesimo giubileo Yared prese in moglie Baraka, figlia di Rasuial, figlia della sorella di suo padre, nel quarto settennio di questo giubileo e costei. Nel quinto settennio, nel quarto anno del giubileo, gli generò un figlio ed egli lo chiamò Enoch. Enoch. Enosh fu il primo, fra gli uomini nati sulla terra, ad imparare la scrittura, la dottrina e la scienza e affinché gli uomini conoscessero i periodi degli anni secondo la regola di ogni luna, scrisse nel libro i segni del cielo secondo la regola delle lune. Egli fu il primo a scrivere le testimonie e le fece ascoltare alla umanità, nelle famiglie della terra, e indicò i settenni dei giubilei, indicò i giorni degli anni, così come noi gli avevamo indicato. Egli vide il passato ed il futuro in visioni notturne, in sonno, e quel che accadrà all'umanità, alle sue generazioni, fino al giorno del giudizio. Tutto egli vide e conobbe, lo scrisse e lo pose a testimonianza, sulla terra, per l'umanità e le sue generazioni. E nel dodicesimo giubileo, nel settimo settennio, prese in moglie una donna chiamata Edena, figlia di Daniel e figlia della sorella di suo padre e costei, nel sesto anno di quel settennio, gli generò un figlio ed egli lo chiamò Matusalemme e stette, poi, sei giubilei con gli angeli di Dio e gli mostrarono tutto quel che era in terra e nei cieli, la potenza del sole. E scrisse tutto e testimoniò contro i vigilanti che avevano peccato insieme con le figlie dell'uomo poiché avevano cominciato ad unirsi con le figlie della terra e ad essere impuri e testimoniò, Enoch, contro tutti loro. Ed egli fu preso di tra i figli dell'uomo e noi lo portammo, per la grandezza e la gloria. Nel giardino di Eden ed eccolo, colà, a scrivere il giudizio e la condanna del mondo e tutta la malvagità dell'umanità. E, a causa sua, mandò il diluvio su tutta la terra di Eden, poiché colà egli fu posto come segno per testimoniare contro tutti i figli dell'uomo, e, per dire tutte le azioni delle generazioni fino al giorno del giudizio. ed egli suffumigò di incenso la plaga occidentale del santuario, caro al Signore, sul monte a sud, poiché nella nuova creazione, per la santificazione della terra, quattro luoghi sono, sulla terra, consacrati al Signore. Il giardino di Edene, nel suo interno, il monte dell'Est. Questo monte sul quale tu stai oggi, il monte Sinai e il monte Sion. Per questo la terra è santificata da tutti i peccati e dalla impurità delle generazioni del mondo. E nel quattordicesimo giubileo Metusalemme prese in moglie Edena, figlia di Ezzaele, e figlia della sorella di suo padre, nel primo anno del terzo settennio e generò un figlio e lo chiamò Lamech. E nel terzo settennio del quindicesimo giubileo Lamech prese in moglie una donna di nome Bitanos, figlia di Barachel, e figlia della sorella di suo padre, in questo settennio, ella gli generò un figlio ed egli lo chiamò Noè, dicendo, «È colui che mi consolerà da tutto il mio lavoro e dalla terra che il Signore ha maledetta». E alla fine del diciannovesimo giubileo, nel settimo settennio, nel sesto anno, Adamo morì e tutti i suoi figli lo seppellirono nella terra ove era stato creato ed egli fu il primo ad essere seppellito nella terra e mancavano 70 anni ai 1000 anni poiché, nella testimonianza dei cieli, 1000 anni equivalgono a un solo giorno. E perciò, a proposito dell'albero della conoscenza, fu scritto, «Nel giorno in cui mangerete da esso, morrete». E perciò non compì gli anni di questo giorno, perché morì in quello stesso giorno. E al compimento di questo giubileo, nello stesso anno, dopo di lui, fu ucciso Caino. Gli cadde la casa addosso. Morì in mezzo alla casa, colpito dalle sue pietre, perché con una pietra aveva ucciso Abele e di pietra, per giusta condanna, fu ucciso. Perciò, sulle tavole del cielo, è stato stabilito, colui che uccide di arma il proprio compagno sia ucciso con essa, arma, come lo ferì. Così facciano a lui. E nel 25esimo giubileo Noè prese in moglie una donna di nome Emmezzara, figlia di Rachele, figlia di sua sorella, nel primo anno del quinto settennio e costei. Nel terzo anno, gli generò Sem, nel quinto anno gli generò Cam e nel primo anno del sesto settennio gli generò Yafet. Cinque. Corruzione. E fu quando i figli dell'uomo cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero ad essi delle figlie, che gli angeli del Signore le videro nell'anno uno di questo giubileo, e poiché erano belle a vedersi, si presero mogli fra tutte quelle che scelsero ed esse generarono loro dei figli e questi erano giganti. E crebbe la malvagità sulla terra e tutti gli esseri corruppero il loro modo di vivere. Dagli uomini agli animali, alle fiere, agli uccelli e fino a tutti quelli che si muovono sulla terra. Tutti corruppero il proprio modo di vivere e le proprie regole e presero a divorarsi fra loro. La malvagità aumentò sulla terra e i pensieri della mente di tutti furono, egualmente, in ogni tempo, malvagi. E il Signore guardò la terra. Ed ecco, essa si era corrotta ed ogni essere di carne aveva corrotto la propria regola e tutti quanti, innanzi ai suoi occhi, avevano reso malvagio quel che era sulla terra. E disse, cancellerò l'uomo ed ogni essere di carne che è stato creato sulla faccia della terra. E solo Noè trovò grazia avanti agli occhi del Signore. E si adirò assai contro i suoi angeli che aveva mandato in terra, tanto da sradicarli da ogni loro potere e dirci di legarli nelle profondità della terra. Ed ecco che essi sono legati fra loro e son soli. E contro i loro figli uscì la parola dalla bocca del Signore per ferirli di spada e scacciarli da sotto il cielo. E disse, il mio spirito non starà, per sempre, negli uomini dato che essi sono, di, carne. E sia, il loro tempo, di 120 anni. E mandò in mezzo a loro la sua spada affinché ognuno uccidesse il compagno. E cominciarono ad uccidersi l'un l'altro fino a che tutti caddero sotto la spada e, sotto gli occhi dei loro padri, furono cancellati dalla terra e furono poi legati nelle profondità della terra fino al giorno del grande giudizio per la condanna eterna di tutti coloro che hanno corrotto, al cospetto del Signore, il proprio modo di vivere ed il proprio modo di pensare. E li cancellò tutti, dal loro posto e non ve ne fu alcuno che egli non ebbe condannato per tutta la sua malvagità. E fece, ad ogni sua opera, una creazione nuova e buona sì che essi non peccassero in eterno, in tutte le loro creature, e fossero tutti, in ogni specie, sempre buoni. E la condanna di tutti loro fu stabilita e scritta sulle tavole del cielo, senza ingiustizia. E per tutte le creature e tutte le specie, se trasgredivano dalla via sulla quale era stabilito che andassero e non vi andavano, fu scritta la condanna. E delle cose che sono in cielo e in terra, nella luce e nelle tenebre, nell'inferno, negli abissi e nell'ombra non ve ne è alcuna le cui condanne stabilite, scritte e scolpite per tutti, per i piccoli e per i grandi. Per i piccoli, secondo la loro piccolezza, per i grandi, secondo la loro grandezza. Ed egli giudicherà ognuno secondo le proprie azioni. Ed egli, se disse, la condanna agisca su ognuno, non è tale da far favoritismi ed accettar doni di. Se ha dato tutto quel che è sulla terra non fa favoritismi e, poiché è giudice, non riceve doni dalle mani di lui. E, per tutti i figli di Israele, fu scritto e stabilito, se si rivolgono a lui in santità, egli condonerà tutte le loro colpe e rimetterà tutti i loro peccati. È stato scritto e stabilito, si userà misericordia verso tutti quelli che, una volta all'anno, si convertiranno da tutte le loro colpe. Diluvio. E, verso tutti coloro che, prima del diluvio, avevano corrotto il proprio modo di vivere e di pensare, non fu fatto favoritismo, si eccettua solo Noè, perché a lui fu fatta parzialità per quanto riguarda i figli che, per causa sua, salvò dal diluvio dato che il suo cuore, in tutto il suo modo di vivere, così come gli era stato ordinato, era buono ed egli non si allontanava mai da quel che era stato stabilito per lui. E il Signore disse: distruggerò tutto quel che è sulla terra e tutto quel che è stato creato, dagli uomini alle fiere, agli animali, agli uccelli e ai rettili. E, affinché lo salvasse dal diluvio, ordinò a Noè di farsi un'arca. E Noè fece un'arca in tutto come gli aveva comandato, nel quinto anno del quinto settennio del Giubileo. E vi entrò nel sesto anno di esso settennio, nel secondo mese, all'inizio. Fino al 16 entrò lui e tutti quelli che noi introducemmo, per lui, nell'arca e il Signore lo chiuse, da fuori, il 17, di sera. E il Signore aprì le sette cateratte del cielo e le sette aperture, nel numero di sette, delle fonti del grande abisso. E le cateratte cominciarono a far scendere acqua dal cielo per 40 giorni e 40 notti e le fonti degli abissi facevano salire il livello dell'acqua fino a che tutto il mondo se ne riempì. E l'acqua crebbe sulla terra, si innalzò di 15 cubiti su tutte le alte montagne e l'arca si sollevò dalla terra e andò vagando sulla superficie delle acque. E l'acqua stette sulla superficie della terra per 5 mesi, cioè 150 giorni. E l'arca andò vagando e si fermò sulla cima di Lubar, uno dei monti di Ararat. E nel quarto mese si chiusero le fonti del grande abisso, le cateratte del cielo furono trattenute e, all'inizio del settimo mese, tutte le aperture degli abissi della terra si aprirono e l'acqua cominciò a scendere nell'abisso inferiore. E all'inizio del decimo mese apparirono le cime dei monti e, al principio del primo mese, comparve la terra. E le acque sparirono da sopra la terra nel settimo anno del quinto settennio e nel 17° giorno del secondo mese la terra si asciugò. E il 27 aprì l'arca e ne mandò via le fiere, gli animali, gli uccelli e i rettili.